facciamo questa cosa in collaborazione anche con altre associazioni, principalmente con l'associazione Orlando, con Non Una di Meno, con Arci Lesbica, UDI e la Casa delle Donne per Non Subire Violenza. Anche se l'idea è stata nostra, comunque abbiamo fatto le cose insieme. Il Tribunale delle Donne per l'ex Jugoslavia consiste in un'iniziativa che è durata parecchi anni, durata 5 anni e continua ancora, che ha voluto mettere in evidenza e non far dimenticare il continuum della violenza sulle donne che ha caratterizzato sia il periodo della guerra che del dopoguerra, che è stato veramente un violento dopoguerra. Non voler dimenticare ha significato mettersi in relazione con tutte le donne che volevano testimoniare su questo continuum della violenza. Come si è riuscite a mettersi in contatto con queste donne? Le donne nero serbe di Belgrado hanno sempre tenuto relazioni con le donne dei paesi in cui in una sorta di scioglimento etnico si è divisa l'ex Jugoslavia, perché hanno rifiutato di essere nemiche, hanno rifiutato di considerare le altre nemiche e quindi hanno voluto far valere questa creazione di ponti che erano riuscite a realizzare durante la guerra, anche dopo la guerra, perché appunto non si perdesse la memoria di quello che ha significato la guerra per le donne, perché c'era necessità di verità, giustizia e riparazione. Questo già un po' dice una cosa peculiare di questo tribunale, cioè un approccio femminista alla giustizia. Un approccio femminista alla giustizia vuol dire che, prima di tutto, questo non è un tribunale che intende condannare qualcuno. Cioè, il risultato di questo tribunale è parlare delle violenze, scoprirle, metterle in evidenza perché tutti le conoscano e perché se ne faccia memoria, ma non ha lo scopo di condannare qualcuno, però ha lo scopo appunto di dimostrare che cos'è stata questa guerra senza coprire nulla. E quindi un tribunale che si mette anche al servizio degli altri tribunali, nel senso che propone dei cambiamenti anche nel modo di fare giustizia, si propone come un evento, un'esperienza che permette di riflettere sulla giustizia, quella che è stata fino adesso, soprattutto la giustizia dei dopoguerra o dei dopodittatura, in cui le persone, e tra queste molte donne che hanno subito violenza, non sono al centro del discorso del tribunale, ma invece servono soltanto per condannare qualcuno. Dopodiché, se loro sono soddisfatte di questo risultato, se per loro la vita ricomincia, se riacquistano dignità in questo modo, non interessa a nessuno, sono delle persone che devono soltanto raccontare quello che è successo loro. La differenza qual è nel Tribunale delle Donne? Che le donne sono soggette e protagoniste del tribunale. Io sono andata a vedere la restituzione che è stato fatto del lavoro realizzato in parecchi anni, quasi 5 anni, attraverso le relazioni con associazioni appunto di questi vari paesi che si sono formati dopo lo scioglimento dell'ex Jugoslavia, e è stato un lavoro lunghissimo lavoro di avvicinamento alle donne che potessero essere testimoni, un lavoro con loro di forte empatia che ha permesso appunto che a Sarajevo si restituisse tutto questo lavoro attraverso un evento nel teatro principale di Sarajevo dove le testimoni hanno testimoniato. Le recenti condanne di Mladic al Tribunale dell'Aia e il suicidio di Praljak hanno mostrato come in ex Jugoslavia ci sia ancora chi soffia sul fuoco della divisione etnica, quindi insomma il lavoro che stanno facendo le donne è in assoluta controtendenza. È in assoluta controtendenza, le donne rifiutano di essere nemiche tra loro, rifiutano di essere nemiche come hanno fatto durante tutta la guerra, hanno creato ponti. D'altra parte loro avevano eccitato una guerra nazionalista, una guerra fra nazionalismi, uno con un nazionalismo contro l'altro, che è stato veramente qualcosa che è caduto sulla testa delle persone, insomma, cioè dal socialismo si è passati al nazionalismo, dopo essere passati per una crisi economica fortissima, rispetto alla quale delle forze che facevano parte anche delle forze socialiste sono diventate delle forze nazionaliste, che quindi hanno usato nella guerra tutti gli strumenti che si usano nelle guerre di tipo nazionalista. Questo Tribunale delle Donne vede l'esperienza di altri 40 tribunali delle donne che sono stati fatti in vari paesi del mondo, tra cui in India ne sono stati fatti parecchi, Secchi e in Sudafrica, quindi si avvale di esperienze che sono state fatte anche precedentemente, sia come tribunali delle donne, sia come tribunali per la giustizia transizionale, perché anche questo è uno degli scopi, no, del tribunale delle donne, quello di contribuire a una transizione pacifica dopo che c'è stata tanta violenza, si è creata una situazione di contrasto fra i vari paesi che si sono costituiti e che ancora rimane molto, molto vivo, no? Ecco, ci saranno delle ospiti importanti venerdì, vogliamo ricordarle? Ci sarà Stasia Zajovic, che è stata proprio il motore di questa scelta di fare il Tribunale delle Donne, Suvada Selimovic, che viene dalla Bosnia e Erzegovina e che è stata ed è anima dell'associazione Anima, che si chiama così, di Kotor in Montenegro, Miriam Carlino, che è una studiosa dei tribunali delle donne e che ha fatto la sua tesi di laurea sul Tribunale delle Donne per l'ex Jugoslavia, e poi Raffaella Lamberti dell'Associazione Orlando e Patricia Taff, che sono io, delle Donne in Nero.